Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva, di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, un ruvido buongiorno in questo sabato 11 luglio, San Benedetto da Norcia, ricordate però anche che c'era anche Brancaleone da Norcia, e qui bisogna vedere se i problemi di cui parliamo oggi si ispirano più alla saggezza di San Benedetto da Norcia oppure se all'approssimazione, sia pur piena di passione, di questo idolo, ricordate Vittorio Gassman nel film Brancaleone alle crociate, Brancaleone da Norcia, perché? Perché in questa giornata innanzitutto i compari dei Conti della Belva vi salutano. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Oscar Giannino, il Renato Cifarelli si collegherà con noi più tardi, ma intanto vi diciamo subito come intervenire in trasmissione telefonando all'800 24 00 24 e dandoci le vostre opinioni al 349 238 6666, nonché su Twitter, dove lo sapete il nostro account è appunto Conti della Belva. Allora, di che cosa parliamo oggi? Inevitabilmente la prima domanda, nella prima parte della trasmissione, quella dedicata a capire a che punto è la crisi, con Mario Seminerio, sarà sulla Grecia e cosa pensate di questo nuovo piano Tsipras che dopo il referendum della domenica scorsa ha nuovamente rispiazzato tutti, perché altro che uscita della Grecia dall'euro, altro che muro rigoroso dei paesi euroortodossi. La realtà è che con questo piano per 12 miliardi di miglioramento dei saldi pubblici greci in 2 anni, che sorprende un po' le estreme di destra e sinistra che naturalmente vedevano in Tsipras e l'ex Varoufakis i due che avrebbero portati dritti fuori dall'euro, rivelando che si può andare perché lo sceglie il popolo fuori dall'euro, invece è un programma che in realtà sulla carta, vedremo perché sulla carta, è più rigoroso addirittura dell'ultimo piano rifiutato dall'Unione Europea, perché quelli erano 9 miliardi e mezzo, questi sono 12 miliardi, ma nella realtà vedremo oggi, ma i mercati e le cancellerie dicono che oramai questo programma si accetta e in cambio, notizia della notte, la Grecia ottiene 74 miliardi, di cui 56 dal fondo salva stati ESM e il resto dal fondo monetario, e quindi la domanda è, secondo voi cos'è Tsipras? È un proteo dalle mille facce che vi delude, oppure è un abilissimo negoziatore che mette alla corda i limiti dell'euroarea, che non gli sa dire guarda, i tuoi fondamentali in realtà dovrebbero portarti fuori? Ecco, ci interrogheremo naturalmente con le nostre opinioni sui dati, i numeri di questo piano, però questo è il primo interrogativo, capire voi come la pensate su questo sviluppo che comunque cambia la faccia all'euroarea. Qualunque cosa avvenga è una sfida che, se finisce così, è una sfida vinta per chi vuole l'unione dei trasferimenti, cosa che l'Unione Europea fino a questo momento, l'euroarea, non è stata. E quindi prima domanda, poi ci sarà un secondo grande blocco dedicato alla questione dei 1000 dirigenti legittimi delle agenzie tributarie, noi tifiamo per la soluzione nessuna sanatoria, ma soprattutto oggi vi presentiamo una equipe di professionisti che si mette a vostra disposizione per le impugnative, per portare lo Stato alla sbarra, per deludere il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Orlandi, ve lo ricordate, che all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale sulla illegittimità dei dirigenti non nominati per concorso, disse che i contribuenti, voi poverini, non dovevate perdere tempo e soldi a fare le impugnative, e invece le commissioni tributarie provinciali e regionali danno ragione ai contribuenti, quindi sotto a impugnare quando c'è la firma di un dirigente illegittimo. Vi spiegheremo come e perché questi professionisti si danno da fare, naturalmente raccontateci le vostre esperienze telefonando. Poi, terza questione di fondo, il no ai prepensionamenti. Il presidente dell'INPS Tito Boeri l'altro ieri, nell'occasione del suo rapporto annuale dell'INPS, come sempre numeri dell'INPS un po' da far venire i brividi, in 5 punti ha proposto un intervento di fondo sulle pensioni e sul welfare, e il primo punto è molto importante perché lui dice no al ritorno alle vecchie pensioni di anzianità. Chi vuole anticipare l'uscita rispetto all'età di vecchiaia, lo ricordo a tutti, quest'anno sono 66 anni, sono 62 anni e 6 mesi che salgono quest'anno, chi vuole anticipare deve fare il seguente conto: il montante, quello relativo ai suoi contributi, deve rispalmarlo con due criteri a seconda di quanto prima va in pensione ci perde, perché il montante non viene coperto da deficit aggiuntivo, e perde anche in proporzione alla sua attesa di vita residua rispetto agli anni che ha. Quindi nessun prepensionamento in deficit. Siete d'accordo? O sotto sotto vorreste anche voi tornare a fare un po' di Grecia in Italia, visto che i partiti avevano promesso a tutti di riprendere il prepensionamento tra qualche mese? Ci sarà uno contro della CGIL, queste idee di Tito Boeri, uno a favore, il professor Riccardo Puglisi, ma sentiremo come la pensate voi, se volete riprepensionarvi oppure no. Ecco, escluse queste tre questioni, rapido giro di tavolo come al solito su che cosa ci ha fatto arrabbiare in settimana. Carlo Alberto. Mi ha fatto arrabbiare il problema che, sai, in Italia la liberalizzazione dei taxi è un problema di traffico, come si dice. Uber è stata bloccata dal Tribunale di Milano, definitivamente Uber Pop, perché fa traffico, capisci? Fa troppo traffico. E poi abusa dell'ingenuità dei giovani. E poi la cosa bellissima, ha detto, non si può andare avanti con questa storia qua, questi signori di Uber hanno i prezzi liberi. Ma non esiste un prezzo, l'incertezza del prezzo semina terrore tra le fila della povera gente. Il prezzo deve essere fisso e possibilmente stabilito dal tribunale, capisci? Il prezzo, Oscar, il prezzo fissato dal tribunale. Siamo conciati in questa maniera. Naturalmente la politica sta a guardare, perché così non si sporca le mani deludendo interesse di tutti i tipi, e ci pensano i giudici a stabilire che cosa è il mercato e che cosa no, che cosa si può fare e che cosa no. Mario? Ma io incazzare no, però mi ha quasi divertito e lasciato perplesso, diciamo, quello che hanno fatto le autorità cinesi sul mercato azionario, nel senso, cioè praticamente prima hanno indotto la popolazione, diciamo i piccoli risparmiatori, a investire pesantemente in azionario, questi si sono pure indebitati, eccetera. Sì, dopodiché hanno fatto scoppiare la bolla con lo spillone e non sono più riusciti a controllare gli effetti, per cui adesso sono passati dalla parte opposta e sono passate misure demenziali, tipo il blocco delle cessioni di azioni per 6 mesi da parte di membri del consiglio di amministrazione, dirigenti aziendali, fondi comuni che hanno più del 5%, praticamente finanziamento dell'acquisto di azioni proprie, finanziamento, esatto, finanziamento a tassi agevolati dell'acquisto e riacquisto di azioni proprie, e più, cioè, 1400 azioni che hanno smesso di quotare, così alla fine non, vabbè, però diciamo il crollo c'è stato. Questo sarà secondo me una cosa molto problematica per la leadership cinese, perché loro puntavano sul mercato per, diciamo, avere uno strumento di efficiente allocazione delle risorse. Gli è scoppiato in faccia, mi ricorda molto la scena dell'apprendista stregone in Fantasia, no? Quando c'è Topolino con queste scope, va e viene, arrivano, si moltiplicano, continuano a portare acqua fino a che alla fine deve arrivare lo stregone in persona. Vorrei capire chi è lo stregone rispetto alla Cina, però, per cui restiamo sintonizzati, vediamo che cosa succede nelle prossime settimane e mesi. Allora, io ho la seconda impressione su queste cose. Primo, l'ordine del partito: il mercato riapre ma può solo salire, e la sospensione del mercato, come è evidente a voi tutti, sì, perché il mercato è fatto per poter salire e scendere. Secondo, le notizie ieri di tutti gli intermediari esteri abilitati a operare sul mercato cinese non sono tantissime, la Cina è ancora bella chiusa rispetto al mondo. Confermavano che i broker cinesi non raccolgono le opzioni di vendita, quindi capite che è effettivamente così, che, cioè, ha paura di andare in carcere. Il mercato può solo salire, asimmetrico, il mercato può solo salire, e abbiamo scoperto, terza cosa finale, che tutto l'Occidente tifa in realtà perché le baionette cinesi oggi obblighino il mercato solo a risalire, perché se dovessero mettere mano ai 2 trilioni di dollari per rifinanziare le loro banche, che hanno pessimi asset di credito e qualità del capitale, beh, gli effetti sugli Stati Uniti e sulla Fed, sui tassi di interesse sul mondo, sarebbero onde molto alte. E quindi l'Occidente oggi tifa perché le baionette cinesi obblighino il mercato ad aprire solo potendo risalire. Una cosa ridicola! Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta in questo sabato 11 luglio, sono le 10:18 primi, 51 secondi qui dagli studi della Radio di Milano, la compagnia dei compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar, e cominciamo con la nostra rubrica abituale, A che punto è la crisi? Sto vivendo una crisi. Inevitabilmente Ovviamente dobbiamo in realtà partire dalla Grecia, perché già ci sono parecchi dei vostri commenti. Mario, qual è la tua impressione su questa vicenda? Ma io ho fatto un commento ieri sul mio blog, diciamo, mi pare che, come dicono gli americani o gli inglesi, more of the same, nel senso che continueremo a dare altri soldi. Non c'è una vera e propria così nation building, nel senso che la Grecia deve rifare tutta la sua pubblica amministrazione, non so come, quando e perché lo farà. Credo che questa vicenda finirà male, non ora ma più in là. Sto cercando disperatamente di capire a cosa è servito il referendum, perché ho visto che, se non a permettere a molti esponenti della sinistra italiana per l'ennesima volta di rendersi ridicoli con la scampagnata in Grecia, e temo che avremo veramente grossi problemi a venire, perché mi pare evidente che Tsipras ha preso atto, e mi chiedo alla buon'ora, ma perché solo ora, che una eventuale uscita dall'euro sarebbe stato l'equivalente di un evento bellico, ma proprio questa non è una metafora, cioè sarebbe stato un evento bellico. Evidentemente nessuno gli ha suggerito questo rischio, questa potenzialità. Adesso non so, penso che la storia giudicherà Tsipras in una maniera ambivalente, un po' come ha giudicato Gorbaciov per certi aspetti. Sì. No, Gorbaciov amato qua da noi in Occidente, detestato dagli ex sovietici, l'uomo che voleva fare riforme tenendo in piedi un paese dall'interno, ha tolto la chiave di volta, gli è arrivato tutto in testa. Adesso Tsipras non so a quale categoria appartenga, però la vedo difficile. L'unica cosa che mi preoccupa, se dobbiamo dare altri 70 miliardi a un sistema bancario, anche ad un sistema bancario come quello greco, che è chiaramente agonizzante, vediamo se entrerà in gioco il famoso bail-in, cioè se sarà chiesto ai creditori delle banche greche, quindi ai depositanti ed eventualmente agli obbligazionisti, di farsi carico di questo onere e quindi subire un taglio a tutte le posizioni sopra i 100.000 euro. E questo è il tema, Mario. Secondo me il vero problema qui è capire il ruolo del sistema bancario in questa Europa. E qui, siccome la Grecia invece ci sta spiegando quanto abbiamo sottovalutato una fragile costituzione del sistema bancario tra realtà nazionale e realtà internazionale, e vedrai che il blocco del sistema bancario porterà a un taglio del PIL del 3-4% minimo, perché proseguirà ancora per le prossime settimane. Ma soprattutto c'è questo grande contrasto ideologico: abbiamo dato i soldi per salvare le banche, no? Le banche succhiano il sangue. Non si capisce che le banche sono un elemento fondamentale per il funzionamento dell'economia, che non sono un elemento ideologico, no? E devo dirlo io, non posso farlo dire a te, ok? E che il salvataggio delle banche è un pezzo, come dire, di scelta istituzionale, non è un favore che facciamo a una controparte. L'Europa questo fa ancora fatica a capirlo, e secondo me dobbiamo spiegarlo molto meglio. Il bail-in sarà una catarsi colossale, secondo me militare, e che comincerà in Grecia, ma fammi dire, purtroppo proseguirà in Italia, e di questo dobbiamo essere molto consapevoli. Aia. Allora, io vi dico in breve, poi in lungo, l'ho scritto oggi sul Messaggero, sia pure con qualche taglietto come mi hanno fatto stamattina nel fondo del Messaggero del mattino, ma detto questo, a oggi, se passa l'accordo, e l'area delle cancellerie dice che passa, perché la paura cinese due notti fa ha fatto tremare tutti, perché Obama, ovviamente, che se i cinesi mettono mano alle riserve per capitalizzare le banche, viene investito, quindi dice agli europei tutto questo: signori, speriamo sulle baionette cinesi da una parte, cari europei, vedete di risolvere il problema greco, date una mano, ma non mi rompete le scatole, questa è la posizione dell'America. Allora, queste cose che cospirano perché la proposta greca passi, secondo me non devono far sfuggire un punto di fondo, cioè chi sottolinea che i 12 miliardi di miglioramento dei saldi biennali greci sono più pesanti dell'ultimo documento a cui la Grecia disse no e per questo andò al referendum, dimentica che quei 12 miliardi di impegni sulla finanza pubblica sono in realtà, e tutti lo sappiamo, ed è bene che ci riflettiate anche voi a casa, scritti sull'acqua. Perché? Voi capite che credere che questo impegno dell'1% di avanzo primario della Grecia quest'anno, che al quarto anno diventa il 3,5% sul PIL, valga davvero, dimentica che oggi nessuno, né noi, né l'Unione Europea, né Tsipras, né Tsakalotos, sono in grado di sapere a quanto sta andando il PIL greco quest'anno. Esatto, quindi, siccome manca il denominatore in tutti gli indicatori che ci sono in quel programma, la domanda che faccio a voi in ascolto e a voi cari amici qua, ma se noi scoprissimo a ottobre che il PIL greco sta perdendo il 4-4,5% quest'anno, quest'anno, e quindi il deficit sarebbe sicuramente sul PIL ancora superiore al 12% dell'anno scorso. Ma voi capite che non è un impegno approvato dall'Unione Europea e dalla Grecia che in 4 settimane rende possibile fare l'avanzo primario. Quindi sono tutti impegni con questa, per così dire, mancanza di fondo. Il denominatore, il PIL, non c'è. Allora, quindi, fare 12 miliardi di miglioramento, ancora una volta tutti per via fiscale, con un sistema fiscale fallito, eccetera, eccetera, io sorrido, perché sono impegni che non ci stanno. Dall'altra parte, invece, se arrivano i 74 miliardi, quello è un impegno su cui l'euroarea non si tira più indietro. Cosa voglio dire? Voglio dire che la sfida di Tsipras a oggi deluderà le estreme, sia di sinistra che di destra, che l'hanno appoggiato. Deluderà i no euro, deluderà chi come me ha tifato Grexit, parliamoci chiaro, perché io speravo che l'euroarea dicesse chiaramente i paesi, siccome con una moneta non si può svalutare la moneta unica, c'è un unico modo per fare convergenza per chi ha bassa produttività: fare grandi balzi di produttività con le riforme nella pubblica amministrazione, nei servizi, perché chi esporta è già esposto al morso della concorrenza. E la facevano in Grecia sto recupero di produttività? No, non lo facciamo neanche noi. Siete voi due che eravate due pro Grexit, perché l'alternativa a questo è solo la deflazione dei salari, e invece Grecia non esce, e invece l'Unione Europea questa banalità, che è la debolezza dell'euro, non ha saputo affermarlo. Però è nata l'unione dei trasferimenti. Allora Tsipras vince, che prende una barca e di allora soldi vuol dire che chi sfida l'euroarea rigorosa a parole, ma senza regole chiare, perché non ci sono regole generali per salvare i paesi, ma si fanno trattative di un anno volta per volta, non ci sono regole che consentono di farle dentro l'euro o fuori l'euro a tempo o rimanendo nell'Unione Europea, queste regole non ci sono, ma lui li ha sfidati, ha fatto un referendum demagogico su un quesito che non esisteva, dopodiché rafforzato li sfida, vince, se porta a casa i soldi e ottiene i 74 miliardi, la ricapitalizzazione del sistema bancario, la ristrutturazione del debito, perché negli impegni non tutti sanno che c'è. Allora, ragazzi miei, Tsipras non è che ha vinto, ha stravinto. Bene, infatti, e i nostri ascoltatori che ci chiedono: cari amici, ma scusate, ma se i greci tutti battono le mani perché anticipano i 67 anni di pensione dal 2035 al 2022, mi spiegate perché noi invece con la riforma Fornero l'abbiamo dovuto fare subito? Cosa rispondiamo noi a questi qua? Perché questo diventa il punto. C'è un argomento da ragionieri, caro Oscar. Invece io oggi festeggio una nuova consapevolezza dell'Europa, perché guardo la storia e non ai tuoi conti da ragioniere, se posso dire, e invece tifo perché la Grecia rimanga con noi e che ci dia una grande lezione di nuovo di consapevolezza. Col casino che ha combinato, figurati se divento Tsipras, ma difendo la necessità degli europei di prendere atto. Ci vorrebbe una classe dirigente europea che scrive salterà fuori un nuovo trattato, forza. Un nuovo trattato che nessuno vuole votare. Voglio dire, su questi 74 miliardi devono votare il Parlamento tedesco, il Parlamento austriaco, quello olandese, quello estone. Cosa succede lunedì? Che tutti quei paesi che avevano detto se non fuori, adesso diranno sì, vi diamo 74 miliardi, cari amici, perché io non lo so. Ma l'Europa non la fanno i ragionieri, Oscar, e io sono invece contento che finalmente togliamo questo equivoco di questa situazione in cui eravamo in mezzo al fiume, senza sapere cosa andare. Qui si accelera, si deve accelerare. Non meravigliamo che giustamente gli italiani, gli spagnoli che votano a novembre per Podemos e così via, ci dicano: cari Carlo Alberto, Mario e Giannino, allora le regole che voi volete per l'Italia, ammettiamolo, sono regole autolesioniste, perché diventa complicato spiegare alla gente che noi qua dobbiamo fare cose quando battiamo le mani a quelli che ci dicono che se sono buoni forse le fanno tra 10 anni. Io la vedo un po' così, mi dispiace, ma mi sembra una contraddizione. Comunque la Merkel segnerà il suo cancellierato dalla capacità di gestire il divenire di questa eurozona, perché così com'è è semplicemente ridicola. Questa è una sfida come l'unificazione della Germania. Siccome la Grecia ha fatto scoppiare il bubone, lo ha fatto in maniera scriteriata, scellerata, facendo il male del suo popolo, perché questo è il punto, la Grecia è in ginocchio dal punto di vista economico. Voglio vedere quando riprende il sistema di pagamenti in Grecia e quando riprende un normale flusso di import-export in Grecia. Ci vorranno mesi, ok? Ma la verità è che ha fatto scoppiare la contraddizione di questa Europa incompiuta. Sono d'accordo. Comunque hanno sbagliato tutti. Ha sbagliato il Fondo Monetario Internazionale, che poi la Lagarde ha panicato perché voleva rientrare dai suoi crediti, perché sta puntando ad essere riconfermata e i paesi asiatici si stanno irritando con lei. Ha sbagliato l'Eurozona con questo approccio ragionieristico, ma deriva anche da assenza dei trattati. ha sbagliato, diciamo, la leadership greca tutta negli ultimi anni a non chiamare le cose con il loro nome, e quindi alla fine il popolo greco andrà di mezzo per l'ennesima volta, perché questa è una manovra ferocemente restrittiva, ancora una volta. Però lo sai meglio tutto di me. Quello che... No, vabbè, infatti poi si comincia a piangere. Sarà attuata l'acqua di rose, esatto. Perché non dimenticare che i due governi precedenti degli accordi 2010-2012 hanno attuato poco più del 30%, quindi io poi tutto sommato, sapete che chi vi descrive questo piano come durissimo, voglio proprio vederlo. Poi ripeto, l'amministrazione tributaria che ha 80 miliardi di tasse scritte a ruolo su un PIL di 180 e non riesce a incassarle, sapete il problema se diminuisce dal 30 al 23% lo sconto alle isole, voglio proprio vederlo. Però se ribadisco, parlando proprio de minimis o da antropologi, un giorno dovremo dedicarci antropologicamente alla sinistra italiana. Perché io domenica scorsa, anche la destra italiana, come sinistra intendo la sinistra sinistra e la destra sociale, tutto il termitaio di soggetti confusi in dissonanza cognitiva che popola sto paese. Vincenzo da Napoli, come la pensa sulla Grecia? Allora, finalmente ho il piacere di... Io condivido tutto quello che avete detto finora, però la domanda semplice è questa: dicevano i cinesi, ma scusate, invece di dargli il pesce, insegniamogli a pescare. Sì. È una vecchia storia questa. Allora dico all'Europa, ma invece di dargli tutti questi benedetti soldi e continuare a darne sempre tanti, perché non l'Europa non costruisce alcune industrie in Grecia che crea lavoro, cioè, quindi crea benessere? Vanno colonizzati? Usiamo la cassa di posti prestiti? Piano. Ma perché noi non siamo stati colonizzati? La Magna Grecia è tutta sempre stata colonizzata. Date queste premesse, si può anche fare. Truppe di occupazione va benissimo. Vincenzo voleva dire una cosa. Diamogli l'opportunità di creare reddito, altrimenti... Allora, Vincenzo, ti traduco in termini tecnici. Tu vorresti un piano Juncker vero, non come quello che esiste solo sulla carta, che consentisse investimenti produttivi nei paesi. Bravo. La gamba che c'è sulla carta, ma manca a questa Europa, che a questo punto diventa necessaria, perché se diventa solo l'unione dei trasferimenti, cioè gli aiuti come dici tu, e non c'è la parte sviluppo, crolla. Di questo stiamo parlando. Quindi Vincenzo, anche se i miei compari ovviamente reagiscono subito, però questo volevi dirci. Allora, Antonino da Siracusa invece come la pensa? Breve, Antonino. Ah, io la penso così, la stampa non ci informa, la stampa anziché tirarla così alla lunga in analisi politiche, in analisi sociologiche, ci dovrebbe fare capire come mai per 5 mesi, 6 mesi la Grecia ha fatto delle trattative di cui nessuno sapeva nulla e adesso le trattative si risolvono in un attimo come un miracolo. La Grecia riesce a fare un piano, il piano viene accettato. A me pare tutta una burla. Antonino, sarà una burla, però voglio dire, se ti guardi le tonnellate di pagine dei giornali e le milioni di ore di trasmissione, l'informazione è attentata. Noi per parte nostra, in sintesi, siamo convinti che l'Unione Europea, accettando questi 6 mesi e impegni scritti sulla carta sui 0, di aliquote, abbia sbagliato. C'è un punto di fondo sulla sostenibilità dei paesi e dobbiamo decidere, cambiando i trattati, se consentiamo di ristrutturarli, visto che le crisi fiscali nella storia avvengono, dentro l'euro, fuori dall'euro per un po' o fuori dall'euro e rimanendo l'Unione Europea. Quindi critiche all'Unione Europea, critiche alla terrificante strategia avventuristica dei greci, perché loro, per lanciare una scommessa e mettere alla corda questa impostazione dell'euroarea che non cambia le regole, le hanno provate di tutte e hanno inflitto alla Grecia una perdita di PIL, di occupazione, bloccato il sistema dei pagamenti che resterà per mesi, vedrete nei risultati, e il prezzo è una strategia politica, perché sono dei marxisti e loro pensano che queste regole andassero ribaltate anche a costo di infliggere questo alla Grecia. Allo Stato stanno vincendo, però tutti questi dettagli, voglio dire, l'informazione dai punti di vista diversi e le ha trattati. Dai Antonino, comunque capisco anche che uno dica, ma com'è che si risolve tutto? Per la paura, le cancellerie improvvisamente, se finisce così, ripeto, perché poi noi non lo sappiamo ancora, vediamo tra oggi e domani, la paura della Cina, la paura di cosa vuol dire andare nella terra incognita, di far uscire dall'euro la Grecia, a quel punto è la paura fa preferire. La paura aiuta a prendere delle decisioni che invece sono state rinviate per troppo tempo. È una componente irrazionale. Come possiamo tutti leggere in maniera così, se posso dire, cinica e limitata. Niente, sei diventata un euro entusiasta. No, assolutamente, figuriamo, sono proprio incazzato. La verità è che meno male che avvengono questi scandali, almeno la gente si dà una mossa. Questo non c'è ricordo dubbio. Quando è crollato il muro di Berlino, se non ci fosse stata la stupida determinazione di Kohl a salvare questa gente, avremmo avuto un bubone nel cuore d'Europa e invece abbiamo la Germania salva. E la Kohl seppe dire la Bundesbank col piffero che noi non gli diamo il cambio 1-1. Esattamente, ha danneggiato mezza Europa per 10 anni, esatto, lo sappiamo. Esatto, perché poi la Bundesbank aumentò i tassi e buttò fuori signori, noi così italiani. Si fa la storia, bravo, però così si fa la storia, altrimenti si fanno i budget ragionieristici da 4 mesi. No. Va bene, allora come vedete giustamente discutiamo anche noi per farvi capire meglio. Torniamo tra un minuto e adesso partiamo con la questione. Dirigenti legittimi, mano alle impugnative! Della belva. Eccoci qui tornati in diretta in questo sabato 11 luglio, San Benedetto da Norcia, o forse San Brancaleone da Norcia, la compagnia dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Oscar Giannino, voi continuate comunque a telefonarci anche sulla Grecia, non c'è nessun problema, anzi cominciamo subito con una telefonata che è rimasta ancora in attesa dal blocco precedente. Mauro da Roma, che pensi Mauro? Viva Tsipras oppure no? Giannino. Sì. Sono Mauro Astibani, l'economaio. Ah! Eccoci qua. Mi consenta di ribadire una mia tesi. Sì. Adattandola alla condizione della Grecia. Sì. Se la crescita si fa con la spesa, e per rimettere il debito occorre farne molta, acquistando ben oltre il bisogno, come possono i bisognosi greci fare quella spesa? E quando anche la facessero, siccome nella loro spesa aggregata è altissimo il valore delle importazioni, delle importazioni, quello delle esportazioni, sì, rischierebbero di fare la crescita di altri paesi. Sì, sì, non c'è dubbio. Infatti il miglioramento, non troppo per così dire incoraggiante, la bilancia dei pagamenti è stato tutto fatto attraverso compressione dell'import. Questo per esempio è un altro problema delle regole da cambiare in Europa, perché con un cambio fisso uguale per tutti, il riequilibrio delle bilance dei pagamenti non possiamo farlo solo quando arrivano le crisi fiscali attraverso la compressione dell'importazione, perché questo accelera gli equilibri, come evidente. Ci vuole un meccanismo cooperativo. Questo ha a che fare col famoso limite sorpassato da molti anni della Grecia attivo di bilancio di pagamenti. Loro sono stabilmente sopra il 6% del PIL e nessuno capisce che questa è una questione di fondo. Quindi io ringrazio Mauro perché ci consente di individuare un altro punto che non funziona nella regola attuale dell'euro. Il riequilibrio del bilancio dei pagamenti è una delle forme di coesione di un'area monetaria ottimale, comunque di una moneta unica, perché altrimenti gli shock diventano asimmetrici. Noi, sia nel caso greco che nel caso spagnolo che nel caso portoghese, il miglioramento della bilancia dei pagamenti, che in quegli altri paesi a differenza che in Grecia è stato molto significativo, è avvenuto praticamente molto più sul settore della compressione dell'import, cioè attraverso l'abbattimento della domanda interna. Come ovvio, questo significa che poi il PIL va giù, anche se la bilancia dei pagamenti a quel punto si riequilibra. Con la simmetrica responsabilità dei tedeschi, che esatto, invece sono in sistematico surplus, l'abbiamo perché detto, abbiamo detto anche questo. Allora, vedremo se tutto questo set di regole, perché Carlo Alberto qua mi è diventato un eurofilo, convinto che adesso cambiamo le trattate, cambiamo tutto. Io, come Mario, penso invece che la storia sarà un po' più complicata, però vedremo, per carità di Dio. Resta il fatto, cari amici, che noi agli italiani che adesso ci dicono perché facciamo i rigoristi a casa nostra quando copriamo di miliardi per la terza volta i greci, per la seconda volta gli ristrutturiamo il debito pubblico. Cari amici, è un po' difficile rispondere a chi ci fa queste domande, perché io entro in imbarazzo, per così dire. Guardate che prenderanno molti consensi quelli che dicono comunque facciamo come i greci, perché sono il prezzo di Sodoma e Gomorra, e se ci sono 10 giusti li salviamo. Cosa c'entra Saviano? No, questa è la Bibbia, non è Saviano, dai. Saviano viene prima. Saviano, non è la Bibbia. Scusate, la Bibbia. Allora, cambiamo argomento mentre voi continuate a telefonare su questo, prepensionamenti e fisco, perché oggi vogliamo spiegarvi, a seguito della battaglia che noi abbiamo insieme ad altri, non troppo in Italia, combattuto su per anni, quando nessuno se ne accorgeva, sulla storia dei dirigenti legittimi non nominati per concorso, quasi 1 migliaio nell'agenzia tributaria editoriale, di cui quasi 800 sono nell'agenzia delle entrate, quando quest'anno la Corte Costituzionale con la sentenza 37 del 2015 ci ha dato ragione, dice dicendo sono illegittimi, noi abbiamo stappato lo champagne, mentre l'apparato tributario del nostro paese si è illividito dicendo che ovviamente A, ci voleva la sanatoria, B, non dovevate fare ricorso. La sanatoria siamo riusciti a ottenere che il governo non l'abbia fatta. Ringrazio Enrico Zanetti, il sottosegretario, che si è molto battuto. Grazie Enrico, per grazie questo. Enrico. Anche oggi trovate su Sole 24 Ore un intervento di Enrico Zanetti che risponde al professor Maurizio Lea, che ieri diceva sì, ho capito, ma nel frattempo si fa un nuovo concorso nel periodo transitorio, comunque facciamo la sanatoria. E oggi Enrico Zanetti gli risponde su Solo: no, non si fa la sanatoria. L'apparato tributario nel frattempo è paralizzato, perché per procedure molto importanti come l'emersione dei capitali dall'estero ci vuole la firma dei dirigenti e i dirigenti non firmano, quindi si perderanno soldi di emersione di imponibile, non di condono. Per tante altre faccende delicate l'agenzia delle entrate un po' paralizzate, la questione è cosa fare da una parte. Dall'altra, bellissime, stupende, orgasmatiche sentenze delle commissioni provinciali tributarie hanno dato ragione alle impugnative, e quindi, caro Stato, piegati alle leggi se ci vuoi fare le prediche. Allora, in questa luce, come sempre un po' combattentistica da parte mia, oggi vi presentiamo un'iniziativa che è nata. Andate sul sito www.gruppocombas.it, malgrado la denominazione che vi fa pensare a un'associazione combattentistica, beh, per così ci dire. Siamo sbrucheri combattenti fiscali, eccola, con le armi del ricorso impugnate. È un'iniziativa di un nucleo di professionisti, avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera, che sulla base di una riflessione proprio sul punto dei dirigenti legittimi si mette a vostra disposizione. Allora, cominciamo però sulla riflessione, cioè con la parte, diciamo così, più concettuale, perché è con noi il professore di diritto tributario all'Università della Bicocca, Alberto Gaffuri. Allora, professore, come stanno le cose? Allora, io adesso non vorrei interrompere l'orgasmo. Ebbene, perché sennò poi il cuore salta. Però devo ricordare, e lo ricorda anche la sentenza della Corte Costituzionale, richiama la Cassazione, la quale in alcune sentenze ha detto che non importa che a firmare l'atto sia un dirigente, l'importante è che sia a firmare l'atto sia un funzionario dell'ufficio, quindi sia l'atto sia riconducibile all'ufficio in quanto il soggetto firmatario fa parte organica dell'ufficio. Quindi attenzione a questo aspetto, e questo è richiamato sia nelle interviste da Busa, che insomma si fa scudo di queste pronunce, sia, ripeto, però la richiama questo indirizzo giurisprudenziale della Corte di Legittimità anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale, la quale afferma proprio espressamente, dice, ma in fondo, quindi qua è quasi una sentenza sul tema del lavoro, ti dice in fondo l'esistenza di una il fatto che il soggetto che ha firmato non avesse la qualifica, la carica dirigenziale, in fondo non intacca i rapporti esterni fra amministrazione e contribuenti, è un fatto che riguarda esclusivamente i rapporti interni lavorativi e organizzativi dell'agenzia. Bisogna tenere conto di questo fatto. Io sono un po' preoccupato da questo punto di vista, da questo orientamento, perché non vorrei che poi alla fine con queste vittorie eccezionali, meritatissime, davanti alle commissioni di merito, poi si arrivi al tappo della Cassazione e lì il contribuente poi prende una randellata. Stato riafferma che tutto sommato sono esigenze funzionali, non inficiano la legittimità dell'atto. Addirittura l'agenzia afferma, ma la mancanza della firma in fondo è è un vizio formale, ma che vuoi? Sì, l'agenzia è questo. Sì, ma che vuoi? In realtà, guardiamo il merito, se l'atto è sostenibile nel merito, no. Ecco, questo non si può dire perché la mancanza della firma manca un pezzo giusto essenziale. Avvertimento, giusto caveat, cari contribuenti, sappiate che comunque si può vincere nel merito, ma c'è questa interpretazione della Cassazione che tutela gli interessi superiori dello Stato con un'interpretazione funzionale, non è così. Però vale la pena di provarci. Però vale la pena di provarci, questo sì, perché c'è una norma espressa, c'è la norma del DPR 600 nel materia delle imposte dirette e dell'IVA, che vale anche nell'IVA, che dice chiaramente che l'atto deve essere firmato da un dirigente. a pena di nullità. I tempi per questa impugnativa lo vogliamo ricordare? Allora, i tempi di questa impugnativa, allora bisogna distinguere se l'atto è stato, esatto, diciamo, emanato dopo la sentenza. C'è una norma espressa del, sul processo, sul, sempre sul, sull'accertamento delle imposte dette dell'IVA, che dice che questa eccezione nullità va proposta nel ricorso in primo grado, quindi immediatamente, non si può proporre dopo. Esatto. Mentre se l'atto precedente. È precedente, allora a questo punto, se è il fatto nuovo della sentenza della Cassazione, quindi si può già, si può, della Corte Costituzionale, scusate, quindi si può adesso, anche se è già stato presentato il ricorso, si può nuovamente eccepire ex novo questa, si può eccepire. Quindi questi questa. Sono i termini della cosa. Adesso tra un minuto è con noi anche Giorgio Bruguera, commercialista, che vi spiega un pochino i termini pratici di questa cosa nata tra commercialisti, avvocati e professionisti a disposizione dei, dei contribuenti. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci qui, stiamo parlando del problema dei quasi 1000 dirigenti senza concorso delle agenzie tributarie dello Stato, quasi 800 l'Agenzia delle Entrate, la sentenza della Corte la 37 quest'anno che dice no, dovete fare il concorso, nelle more del concorso l'anno prossimo. Cosa avviene intanto? Avviene che vi avevano scoraggiato le impugnative, invece le impugnative vanno fatte se c'è la firma di un dirigente, sapendo che in Cassazione poi l'orientamento è molto filostatalista, ma nelle commissioni di primo grado e quelle regionali si vince, perché sono moltiplicate le sentenze. E abbiamo sentito il professor Gaffuri, che insegna diritto tributario all'Università di Bicocca, che giustamente vi avverte di questo. Invece, Giorgio Bruguera, commercialista, questa vostra iniziativa del gruppo Combas, come nasce? A che cosa è volta concretamente? È volta principalmente ai nostri colleghi, perché molti nostri colleghi non hanno capacità sufficienti per supportare il contenzioso. Quindi abbiamo voluto dargli una mano a fare un contenzioso più efficace contro, secondo noi, provvedimenti che sono completamente distaccati dalla realtà fatti dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, volete aiutare i commercialisti a casa loro, nel loro studio. Esatto, diciamo. E questo è un aiuto che noi... A sentirsi un pochino più... diciamo così, a servizio del cliente invece che funzionari dello Stato non pagati esatto. E che oggi devono assicurarsi per i loro rischi civili e penali per fare a spese del cliente quello che dovrebbe fare lo Stato. Mi perdoni se in sintesi descrivo la vostra professione. Va bene, grazie. Ecco, io volevo dire questo. Noi ci siamo fatti una riflessione a luglio del 99, abbiamo deciso di creare questo gruppo appunto per supportare i nostri colleghi. E questa cosa poi ha ovviamente un grosso riflesso sul contribuente. Questa situazione dei dirigenti decaduti era stata già esaminata da noi a partire dal luglio del 2014. Abbiamo fatto un po' di ricerche e ci sono delle cose da dire. Intanto, come ha detto giustamente Gaffuri, abbiamo questa distinzione della presentazione dell'eccezione, quindi l'eccezione ovviamente in primo grado, se parliamo di un ricorso presentato adesso, va fatto nei famosi 60 giorni. Esatto. E invece in sede di appello abbiamo la possibilità di presentarla, visto che è un qualcosa di nuovo. C'è, diciamo, un regno di mezzo. Il regno di mezzo sono tutti quegli avvisi di accertamento a cui è stata fatta la richiesta di accertamento con adesione. Per questi abbiamo 90 giorni in più, quindi calcolate questo. I dirigenti sono stati tutti dichiarati decaduti con data 26 marzo 2015. Quindi a partire da quella data noi dobbiamo fare i calcoli, esatto, per questo nuovo elemento. E voi come gruppo Combas aiutate i commercialisti a predisporre ricorsi in maniera rigorosa? Sì, ma sul nostro sito già ci sono delle eccezioni, diciamo, sulla parte visibile a tutti, delle eccezioni che riguardano ad esempio la nullità del ruolo e della cartella esattoriale, perché dobbiamo capire anche che ci sono tre fasi. Abbiamo una notifica, abbiamo un atto e abbiamo un ruolo. La cosa più interessante, secondo me, che già supportata da un orientamento univoco e concorde, è quello della inesistenza della notifica. L'inesistenza della notifica noi la possiamo avere in un particolare caso, quando abbiamo il messo speciale dell'Agenzia delle Entrate che fa la notifica. Questo messo, in base a leggi, regolamenti e varie, viene nominato dal dirigente. Quindi se il dirigente non è un dirigente, il messo non è un messo e non assume nello svolgimento della sua funzione lo stato di pubblico ufficiale. Quindi in quel momento lì è un signor nessuno. Quindi al di là della natura sostanziale c'è un tema formale sulla consegna fisica, sulla notifica. Esatto, dicendo. E questo fatto è ancora più potente, perché mentre la nullità dell'atto la puoi in un certo senso anche sanare con certe cose, questa parte, l'inesistenza della notifica, certo, è insanabile, esatto. È insanabile, perché? Quindi non solo, la posso far rilevare in qualunque stato e grado del giudizio. Del giudizio, esattamente. E quindi, secondo me, questa cosa, se noi la rileviamo, ricordatevi questo, che l'Agenzia delle Entrate... Questa in realtà è la maniera più efficace. Certo, sì, questa è la maniera più efficace, esatto. Secondo noi è la cosa più efficace. Ricordatevi che l'Agenzia delle Entrate... Io ricordo anche che nella parte aperta al pubblico o nella parte... Credo di parte sì. Parte aperta al pubblico. Nella parte del sito trovate anche la lista dei dirigenti interessati dalla sentenza. No, c'è la lista delle 21 direzioni provinciali che era stata individuata da Barra della DIR Pubblica. Della DIR Pubblica. E queste 21 direzioni provinciali sono praticamente scoperte. Erano delle direzioni provinciali, faccio notare, c'è dentro Milano 2, sì, c'è Milano 2. Seconda, che è una roba colossale. Che cioè. Intermedi, esatto, sì, ecco, di le altre due nullità dell'atto e del ruolo, rapidamente Giorgio, in quel senso lì ci si aggancia che cosa? Allora, per quanto riguarda la nullità dell'atto, parliamo sempre, come ha detto Alberto, del DPR 600 e del 633 del 72, quindi nulla di nuovo. Invece la cosa molto interessante è anche il ruolo. Sul ruolo, esatto. Allora, il ruolo, in base al DPR 602, diventa esecutivo nel momento in cui c'è la firma del responsabile dell'ufficio. Responsabile dell'ufficio che, in base a varie altre norme dirigenti, deve essere assolutamente... varie norme, deve essere assolutamente un dirigente. Ok, allora, siccome il tempo è tiranno, a me tocca dire, tutti gli ascoltatori scrivano a me e all'indirizzo della trasmissione, se non hanno capito eccetera eccetera, andate a vedere su www.gruppocombas.it qualunque cosa vi serva, ci facciamo tramite noi verso i professionisti di questo gruppo, ma non demordete, non date ragione allo Stato, individuate il nome di chi vi ha mandato l'atto, impugnate! Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Fratelli d'Italia, l'Italia alle vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta 11 9 primi dagli studi di Milano di Radio 24 in questo sabato 11 luglio, San Benedetto da Norcia, i compari dei Conti La Belva, Carlo Alberto, Mario, Oscar Giannino e... Da Norcia c'è anche qualche tartufo, secondo me, qualche qui ce tartufo. N'è un po' di tartufi in giro, dico bene. Non di Alba però, non mi toccare i tartufi di Alba. Beh, abbiamo scoperto che Carlo Alberto oggi è diventato un filo euro, un euro ottimista, dice che tutto andrà per il meglio, che questa meravigliosa vicenda andrà greca... molto peggio prima di andare peggio, se posso citare un grande filosofo contemporaneo. Ecco, per chi non lo sapesse, andrà molto peggio per andare meglio, e il logo che, identificativo della ditta, per così dire, non quella di Bersani, bensì quella di Fastidio.net, che è il blog di Mario Seminario, che sempre vi invitiamo leggere. Anche questa settimana troverete molti blog relativi agli sviluppi in atto sul mercato, non solo la Cina, ma anche altro. Nel frattempo abbiamo avuto anche ieri sera tardi il nuovo consiglio del CDP, vedremo che cosa il governo Renzi ci riserverà. Le voci dicono di un decreto di modifica dello statuto della CDP per consentirgli di entrare in Telecom Italia. Io la considererei una sventura, ma vedremo, perché i vertici della CDP, cari amici, li avranno pur cambiato per qualcosa, no? Quindi qualche cosa questa è una buona domanda, non a gratis, sicuro. Esatto. Visto che Guerra, l'ex amministratore delegato di Luxottica, che è stata magna pars di questa regia, dice: beh, in fondo c'è KfW in Germania e la Caisse de Depot in Francia, nel capitale degli ex monopolisti telefonici, perché non dovremmo anche noi entrare con lo Stato nel 10% di Telecom Italia privato? Ah, esatto, Carlo Alberto dice esatto. No, ma no, oggi no, ha no, assunto no, qualche no, droga, Carlo Alberto, devo dire la verità, non me lo aspettavo. Però sono i famosi capitali pazienti, nel senso che sì, state lì capitali pazienti, ma non ho capito. Adesso il risparmio postale, cari amici, si utilizza per entrare nelle aziende private decotte. E quelle decotte. E quelle decotte, ecco. Però anche quelle che servono non decotte come Telecom Italia. No, infatti. Vedremo. Ricordo a tutti che a oggi CDP direttamente e indirettamente è già con 21 miliardi di mezzi propri nella bellezza di 424 società, quindi non è esattamente molto limitata nel suo perimetro. Comunque vedremo. Allora, un po' di vostre telefonate mentre gli altri compari guardano gli SMS per l'opinione dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Pierluigi, che si chiama D'Alecco. Prego, Pierluigi. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno anche a Mario, che seguo sempre con attenzione il suo blog. Dovrebbe sì. Farsi pagare però, perché è gratuito, è un'offesa alla sua intelligenza. Adesso ci pensiamo. È un'ideuzza sulla quale mani. Però guardate che c'è un bottone, un pulsante sul blog per le donazioni, per cui donate con fastidio. Esatto. Di mettere il codice IVA, non le carte di credito. Va bene, come vedete noi ci preoccupiamo dell'aumento del reddito di Mario Spina. Esatto, che mi sembra una cosa buona e giusta. Buona, diciamo. E giusta. Però Pierluigi, ci dicevi. Allora, per la Grecia, ci dimentichiamo che la BCE ha già dato quanto? 89 miliardi con i fondi salva Stato. Quindi, quello è uno dei tanti aiuti che la Grecia ha avuto. La Grecia ha avuto nel primo programma di assistenza 130 miliardi, nel secondo, quello del 2012, 150 miliardi. Inciso, la famosa storia che i politici italiani vi continuano a ripetere, andati alle banche, non andati alla Grecia, da D'Alema alla Lega, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, a tutti, insomma, per carità di Dio, vi invito a leggere un acuto e documentatissimo post sul sito lavoce.info uscito ieri di due bravissimi economisti, che conti della Banca dei Regolamenti Internazionali alla mano, la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea fotografa ogni semestre i flussi tra sistemi bancari, incrociati anche con Target 2, che è la piattaforma che a quello serve nell'euroarea, vi dimostra miliardo per miliardo, A, è vero o non è vero che sono andati alle banche? B, a quali banche? Allora, la domanda numero uno ottiene come risposta: sì, è vero, la gran parte di quei soldi sono andati alle banche. B, però la seconda è: la gran parte di quei soldi andati alle banche sono andati alle banche greche, perché le banche franco-tedesche che hanno ottenuto 40 miliardi, più o meno 42, di rientro delle loro esposizioni pre-2012 nei confronti della Grecia, ne hanno rimesse però 30 miliardi con il taglio del valore quando si è fatto il primo haircut, cioè l'abbattimento di valore del debito pubblico greco detenuto da privati. Il 2012 è stato fatto su una base che andava dal 50 al 59, quasi 60%, a seconda della duration dei titoli detenuti e dell'allungamento delle scadenze, dei rimborsi, del tasso molto abbattuto che veniva deciso, perché ai greci noi abbiamo applicato un tasso, un onere del debito pubblico che è la metà quasi di quello italiano, poco più della metà, 2,3-2,4% di PIL l'anno. Queste sono le condizioni con cui stiamo andando al terzo salvataggio greco e con ogni probabilità la seconda ristrutturazione del suo debito. Però, quindi, caro Pierluigi, i soldi sono più di quelli che dicevi. Però è più facile dire che hanno salvato le banche. Ah, certo, perché le banche sono usuraie, eccetera, eccetera, eccetera. Però, detto tutto questo, attenti come sempre a controllare quello che vi dicono. Quando vi dicono che sono state le banche franco-tedesche, voi fammi vedere i dati. Se voi avete letto l'articoletto, dite no, guarda, non è così, perché sono andate le banche greche, che ciò nonostante sono da ricapitalizzare oggi perché non hanno capitale, esatto, malgrado tutti i soldi che hanno avuto. Infatti, questo è il vero convitato di pietra, è la necessaria ricapitalizzazione delle banche greche, che applicherà per la prima volta il in Europa e il bail-in, cioè taglieggerà i risparmi dei greci. Vabbè, quelli sopra i 100.000. Vediamo, perché quella non terrorizziamo i nostri greci in ascolto, perché come avete letto questa settimana l'ipotesi è non sopra i 100.000, ma sì, ben più ma sotto. Quello lì, quello sì, era puro terrorismo. Era terrorismo sul referendum. Nazario, che ci chiama dalla provincia di Forlì Cesena. Nazario, come la pensi? Ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Allora, per quanto concerne la Grecia, avevo sviluppato una riflessione. Ovvero, ho visto nelle varie trasmissioni che si sono susseguite critiche a Varoufakis perché va in moto senza casco, alla sua cialtroneria, come è stata definita anche in Europa, eccetera. Per carità, giusto o sbagliato alla posizione greca, non voglio entrare nel merito, la mia riflessione era retrospettiva, ovvero questi commenti erano fatti anche dall'Italia, sì. Ma un'Italia che si ritrova un presidente della Repubblica passato che forse era sotto ricatto, un presidente della Commissione Cultura tuttora in carica che ha gli arresti domiciliari, uno Stato che ha un debito pubblico che nonostante i tagli o pseudo tagli continua a salire oltre i 2200 miliardi, esatto. Ecco, quindi noi, tu dici ironia fuori posto, no? Ironia fuori posto, corretti a, cioè, capito, a censori, a giudici della Grecia. In realtà noi dovremmo stare zitti e cercare delle ricette efficaci per il nostro paese. Noi non possiamo dire niente a nessuno. Zaza, diciamo che a me piace molto il tuo in fase terminale. Mi piace molto il tuo appello al senso della misura, che alla politica manca. Vogliamo parlare di che cosa? Del Consiglio regionale della Calabria interamente indagato oggi tranne il suo presidente? Dei particolari, leggete le indagini, il rapporto finale di Gabrielli e quello e il secondo rapporto su Roma Capitale, leggetelo. È una cosa incredibile. Adesso si esce semplicemente mandando a casa un po' di dirigenti, però il racconto è inquietante. Leggete la parte su Alemanno, definito introneo il gruppo di Buzzi Carminati sugli anni di... leggete la conclusione della Corte dei Conti su 340 milioni di danno erariale per il salario di produttività spalmato sotto la giunta Alemanno a tutti i dipendenti, facendolo passare da 170 a 340 milioni. Leggete tutte queste cose. Questa è l'Italia di oggi. Dopodiché, certo, il giudice amministrativo salva Chiamparino in Regione Piemonte, altri sono andati a rivotare per le firme false, ma questo è lo stato della politica del nostro paese. E poi ci stupiamo se sono stati solo 16.000 gli italiani a usare il 2 per 1000 per i partiti, di fronte agli oltre 15 milioni e 900 mila che hanno dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Pensate, 15 milioni e 900 mila l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, 16.000 che lo danno ai partiti. Nazario, secondo me, coglie un punto e di questo lo ringraziamo. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta con i compagni dei Conti da Belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar Giannino. Abbiamo parlato della Grecia, sentiamo ancora le vostre telefonate sulla Grecia. Vi abbiamo presentato un gruppo di professionisti a disposizione. E adesso andiamo sul problema del no ai prepensionamenti, mentre continuiamo a sentire le vostre telefonate. Perché no ai prepensionamenti? Cosa che alla luce poi del documento greco diventa ancora più imbarazzante il dibattito nel nostro paese, perché voi capite che l'Europa si appresta a dire sì, anzi grande rigore della Grecia che prende l'impegno di anticipare al 2022 la piena realizzazione della riforma approvata solo sulla carta per l'innalzamento a 67 anni dell'età pensionistica. Prima prima era il 2035, cioè capite? Però nel mentre noi diciamo sia alla Grecia, che ha un'applicazione così lenta della sua riforma previdenziale, Tito Boeri, presentando l'altro ieri il rapporto annuale della Previdenza come presidente dell'INPS, in 5 punti, due in particolare sono molto rilevanti, perché il primo è stato quello di dire no, no ragazzi, il Parlamento lo so che i partiti sta pensando a prepensionare tornando alle vecchie pensioni di anzianità, ma è un errore, chi vuole uscire prima dei minimi di età posti dalla legge Fornero deve semplicemente vedere il montante che ha accumulato, ricalcolato secondo gli anni di uscita e quindi diminuito quanto più sono gli anni in cui esce prima rispetto a quello che prevede la legge, e naturalmente diminuito anche quanto la sua attesa di vita residua implica, perché il prepensionamento non abbia oneri di finanza pubblica. Una posizione netta, chiara, secca, che ovviamente ha deluso e infiammato tutti i partiti che in realtà si stanno muovendo dalla destra a sinistra, perché la legge di stabilità si torni a prepensionare, ma non con aggravi proporzionali, ma sì, uno sconticino, perché non facciamo un po' di Grecia anche a casa nostra. Allora, per parlare di questo, intanto è collegato con noi, ma naturalmente con facoltà di intervento anche sulla Grecia e su quello che vuole, il professor Riccardo Puglisi, che insegna a Pavia. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto sentiamo ancora qualche ascoltatore sulla Grecia. Andrea, che ci chiama la provincia di Monza e Brianza. Allora, Tsipras vince o perde secondo te? Buongiorno a tutti. Sì, Tsipras secondo me vince, perché praticamente ha fatto una sorta di super cazzola alla Merkel. Nel senso che si è presentato con i conti che i governi precedenti hanno falsato, falsificato, eccetera, e gli ha detto: queste sono le condizioni, o mi date i soldi, usciamo. Quindi la Merkel, perché poi è che dovrà decidere, con qualunque cosa decida, perda, perché se esce la Grecia, effetto domino con tutte. No, chiaro. È chiaro quello che hai detto, è più o meno, siccome l'euroarea non ha avuto il fegato di stare alla sfida, cioè di dire l'euroarea funziona solo con grande riforma di produttività o con la deflazione dei salari, ma altrimenti chi non vuole fare la riproduttività in maniera ragionevole fuori, siccome l'euroarea non ha il fegato di dirlo, io ho sperato che lo dicesse, ma di fatto pare che non lo dirà, e allora hai ragione tu. Questo è il grande punto di questa questione, è un punto che naturalmente fa battere il cuore a tutti coloro che vogliono un'euroarea come unione dei trasferimenti. Vedremo se l'euroarea sarà capace di cambiare i trattati, perché a questo punto lo deve fare, perché altrimenti non regge. E soprattutto voglio capire come spieghiamo agli italiani, agli spagnoli, ai portoghesi che i greci sì e gli altri no, a cominciare dalle pensioni. Che dice Riccardo Puglisi delle posizioni di Tito Boeri, ma anche alla luce del fatto che stiamo battendo le mani alla Grecia, che sulle pensioni, per così dire, si piglia un bel po' di annetti? Beh, allora, certamente la Grecia deve intervenire su questo tema, e la cosa interessante è che erano girate sulla rete alcuni dati provenienti da un rapporto OCSE sul fatto che la Grecia ha fatto parecchie riforme, ma naturalmente si mette il grafico ma non si mette il resto. Se uno va a leggersi questo rapporto, viene fuori che sono i conti pubblici l'area in cui si è fatto di meno, e in particolare sulle pensioni in Grecia si è fatto molto di meno, partendo da un livello di prepensionamento assolutamente intollerabile. Diciamo, io penso sempre che ci sia un punto cruciale non capito, cioè che il nostro sistema pensionistico, anche quello greco e quello di molti altri paesi, è a ripartizione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste nessun tesoretto. Quindi la gente, purtroppo, politici, sindacalisti, giornalisti, hanno sparato contro la Fornero facendo finta come se la Fornero avesse messo mano agli investimenti miliardari dell'INPS in azioni Google o Apple. Cioè, noi abbiamo il nostro tesoretto lì dentro, la Fornero ha preso tutti i soldi e li ha messi chissà dove. È una schifezza totale, perché la verità è che le pensioni sono pagate dai contributi, e se non bastano sono pagate dalla fiscalità generale. Giustamente Boeri dice che bisogna distinguere la cosiddetta previdenza, cioè le pensioni, dall'assistenza, e l'assistenza è sensato che venga pagato dalle tasse dei cittadini. Il problema è questo, che io ritengo che quanto meno ci spostiamo dalla legge Fornero, tanto meglio stiamo, perché c'è un'attitudine statalista spendacciona che viene fuori sempre, e c'è un gruppo in Parlamento, perché un conto Boeri, l'amico Boeri come presidente dell'INPS, poi bisogna vedere cosa succede in Parlamento, perché avete Cesare Damiano, tutta l'area CGL del PD che non aspetta altro, non aspettano altro di fare prepensionamenti, e tra l'altro molto, molto probabilmente si fingerà come al solito, si farà questo, cioè si finanzierà qualcosa di permanente, o si spera di finanziare qualcosa di permanente come i prepensionamenti, con qualcosa di una tantum. E il rischio è che le condizioni di finanza pubblica quest'anno potrebbero anche sembrare un po' meglio per la voluntary disclosure. Ma ripeto, la voluntary disclosure è un'altra roba che è completamente una tantum. E che quindi, comunque inciso allo Stato, è un po' bloccata proprio per la paralisi del tema di cui abbiamo parlato prima, cioè dell'incertezza dei dirigenti che devono firmare le procedure della voluntary disclosure. Quindi a fine maggio erano poco più di 1000 i contribuenti che risultavano averla avviata, cioè molto deludente, ma è paralizzata per questo aspetto organizzativo proprio dell'Agenzia delle Entrate, ed è pazzesco perché si tratta di emersione alla legalità di basi imponibili che poi diventano permanentemente acquisite al gettito tributario. Era solo un inciso per capire, per far capire a chi ascoltava. Quindi lei dice, professor Puglisi, viva Tito Boeri, ha assolutamente ragione, cioè chi vuole uscire prima deve prendere in meno tutto fino all'ultimo centesimo. A mio parere bisogna cambiare il meno possibile, anche dal punto di vista del far andare in pensione la gente prima, perché c'è stato un inganno lessicale orribile, perché un conto di esodati, ovvero sia quelli che sono rimasti perché avevano fatto gli accordi aziendali per uscire prima, sono rimasti senza pensione per un po' e sono stati salvaguardati, cioè fino al 2014 coloro che erano in queste condizioni sono stati salvaguardati, ovvero se gli è stato permesso di andare in pensione. L'inganno linguistico orribile è questo, che chiunque purtroppo perda il lavoro dopo 55 anni viene qualificato nel gergo di Damiano della sinistra PD come esodato. Solo, come esodato. Questa è una vergogna lessicale contro cui bisogna lottare. Secondo punto, lei lo sa che Riccardo Puglisi non c'è solo la sinistra che dice al PD, perché Lega, Forza Italia, sono tutti d'accordo sulla Lega. La Lega Bordigian Salviniana, anche questo, a parte che non è mai, a parte la questione di Eurexit che è una iattura, abbiamo visto cosa è successo in Grecia, ma la questione è la seguente: come vuole finanziare Salvini e Borghi lo smantellamento della legge Fornero, cioè come vuole finanziare per pensionamenti, perché anche loro vogliono andare in questa direzione, semplicemente facendo pagare un contributo ai pensionati attuali. Cioè, avete mai sentito Salvini dire io far pagare un contributo ai pensionati attuali? Ovviamente. Si fa sempre finta, manca sempre il motto di la macchia, lo si dimentica, invece dovrebbe ricordarselo sempre, e quindi qua credo Oscar che si sfondi una porta aperta, il motto di La Malfa, Ugo La Malfa, è fondamentale. Chi paga? Chi paga? Chi paga? Chi paga? Chi paga? Basta far finta che nessuno paghi. Oh, il quinto punto di Boeri, professor Puglisi, è relativo. Boeri in questo sa che esiste un problema di sentenze di Corte Costituzionale, però lui torna a riproporlo. Secondo me ha ragione. Tito Boeri dice: a riequilibrio del sistema, perché poi nel terzo punto Tito Boeri ha proposto anche una rete di tutela assistenziale per gli over 55, però al quinto punto dice: per il riequilibrio, non certo per trovare le fonti per fare tutta la nuova rete di welfare, secondo me, dice Boeri, bisogna comunque chiedere un contributo a coloro che con la pensione retributiva eccedono nell'assegno previdenziale di X volte i contributi versati, che a me sembra una questione di equità intergenerazionale. Lei come la pensa? Allora, è un tema rilevante su cui diciamo che la risposta è un po' dubbia, per questa ragione: perché dal punto di vista politico, appena si comincia da quella parte lì, immediatamente ti ritrovi dall'altro lato i prepensionamenti fatti in Parlamento. Quindi, come si dire, perché da questa cosa una tantum alla fine viene utilizzata come scusa per fare pretensioni. Quindi dal punto di vista politico io sono contrario, perché diventa nella teoria dei giochi della faccenda diventa un meccanismo per cui ci ritroviamo i prepensionamenti, ovvero sia torniamo indietro rispetto alla fondamentale riforma Fornero che abbiamo fatto sacrosanta. Dal punto di vista dell'equità sono d'accordo. A quanto ho capito, dentro il governo Monti in realtà avevano, si era pensata questa cosa, ma il problema fondamentale è che non ci sono i dati sui contributi nel passato per calcolare di quanto la pensione retributiva è superiore. Perché? Perché il signor Stato italiano, ad esempio, non ha pagato per lungo tempo i contributi, ma non solo. Ci sono solo anche calcolati da metà anni 90 in poi. Prima e anche figurativi. Io ho sentito più persone, per esempio, ho avuto una conversazione, posso dirlo, con Piero Giarda, che tra l'altro è l'estensore della riforma del 95, in buona sostanza con la Dini, ma non ci sono i dati. Sì, sì. Purtroppo, attenzione, questa è la realtà dei fatti, più il tema politico di cui ho detto prima. Quindi io dico, lasciate, io sono più forneriano della Fornero, lo dico sempre. Lei rischia naturalmente di essere lapidato per strada, ma assolutamente niente, perché la gente mi dica dove sono investiti i fondi INPS, esatto. E poi ne parliamo. Allora, i fondi INPS, un'ultima aggiunta, certo. I fondi INPS, allora l'INPS gira 300 miliardi, all'incirca 230-240 sono pensioni. Il patrimonio INPS sono 20 miliardi. Cosa vuol dire? Che il patrimonio INPS serve per pagare le pensioni per un mese. Sì, sì, questo è l'amaro fatto. Sono circa 90 miliardi il riequilibrio necessario dalla fiscalità generale annuale. Questi 90 miliardi non vanno tutti in assistenza, perché anche per la parte previdenziale i contributi annuali col sistema di protezione raccolta non bastano a pagare le pensioni. Quindi c'è un contributo alla fiscalità generale anche al netto dell'assistenza. Però voi dimenticate la funzione industriale del prepensionamento. Serve a liberare spazi. Sì. Per i giovani. Su. Va bene. Allora, grazie al professor Puglisi. Torniamo tra un minuto e sentiamo Silvano da Alessandria e Pier Gianni da Pistoia, insieme a un altro ospite che naturalmente non la pensa come il professor Puglisi e non la pensa come Tito Boeri, cioè dice sì ai prepensionamenti. Sentiamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qua, la compagnia dei compari dei conti della belva si è ampliata perché ci ha raggiunto anche Renato Cifarelli, buongiorno. Oltre naturalmente a Carlo Alberto, neo sostenitore di Tsipras, incredibile a dirsi questa puntata, ha aggiunto un pezzo alla sinistra europea. Carlo Alberto, che io sia di sinistra mi sembra evidente, fammi dire che Tsipras è un incapace utilissimo. È un incapace utilissimo, esatto, un idiota. Stavo venendo in moto, sono sbandato perché ho sentito Carlo Alberto dire queste cose. È incredibile, non se l'aspettava nessuno. Ragazzi, per fortuna che c'è l'equilibrio di Mario Seminario, che stamattina, inquadrando la vicenda greca, ha detto ma quello lo dico sempre, però, per cui alla fine ho capito, però voglio dire Mario è uno specializzato nelle concessive, quindi nelle frasi inglesi, sebbene tutto sì, questo esatto. Ragazzi, ripeto, se gli si dà 74 miliardi di euro, la ricapitalizzazione delle banche, la ristrutturazione, la seconda ristrutturazione del debito, il terzo salvataggio per impegni scritti sull'acqua, perché il PIL nessuno lo conosce, quindi non riusciremo a imporre nulla, allora io dico che Tsipras ha stravinto. Allora, tu mi dici che adesso l'Europa cambierà i trattati, diventerà unione di trasferimenti, che Juncker avrà soldi veri. Come ha detto il nostro Premier, andiamo in Europa a settembre a fare casino. Praticamente lui e Jovanotti saranno a settembre a fare casino. Ragazzi, dai, non è così, dai, più 3% a maggio su base annuale. Ne abbiamo parlato, diranno che abbiamo una cosa selettiva. Più 3% non è male, non è male. Invece sulle comunicazioni però il centro studi di Confindustria ha detto che a giugno abbiamo già rallentato di nuovo. No, ma è giusto vedere, non essere solo mensili, lo diciamo noi per prima tre volte, ma su base annuale più 3% non è male. I dati delle attivazioni mensili del Ministero del Lavoro sono di nuovo deludenti, perché sono solo più 3.000 rispetto a quelle del 2014, quindi non è niente di rilevante. Però, visto da dove arriva la ripresa, mi sa che c'è qualcuno che deve un po' mordersi la lingua, perché ce n'erano parecchi che avevano detto che il settore auto e tutte le cose certi piani che una grossa azienda italiana quello si è visto nel primo trimestre del PIL. Adesso partono i beni strumentali, esatto, perché stanno praticamente cominciando a investire. Allora, sempre su questa vicenda, poi le telefonate. Silvano d'Alessandria, prego Silvano. Carissimo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, una cosa molto semplice. Io ho un collega greco, il quale ha un mutuo greco, il quale ha votato no e sperava che le banche saltassero per aria. Mi chiedo cosa sarebbe successo se veramente non avessero dato i fondi alle banche per cui le banche andavano in default a chi aveva un mutuo. Ma mi spieghi una cosa che mi colpisce un secondo: perché il tuo amico greco che ha votato no sperava che le banche saltassero per aria? Per non rimborsare il mutuo. Ma ragazzi, ma Pier, forse non è chiaro. Si inizia dal basso. Io cercavo di sganciare una bomba atomica da qualche parte per non rimborsare il mutuo. Cioè, no. C'è allora, stile, allora, che cosa sarebbe avvenuto? Spieghiamo come funziona il bail-in. Col bail-in i crediti ve li portano via, ma i debiti ve li lasciano tutti. Restano tutti, assolutamente. Sì, no, sì, dai, sì, spieghiamo un po' meglio, così è troppo tecnico. Sì, sì. No. Ma semplicemente, non mani, fai tu. No, no, ma è quello che ha detto Carlo Alberto è corretto, perché poi alla fine i debiti si sarebbero trasferiti alle entità che avrebbero, diciamo, preso il posto delle aziende di credito greche saltate. Ecco. Poi, naturalmente, c'è anche un altro discorso. La Grecia diventa uno stato fallito, non nel senso economico, ma nel senso civile, sociale, istituzionale. Allora, per ricondurci a quello che dice l'ascoltatore, probabilmente chi ha fatto il mutuo non c'è più nessuno che glielo viene a prendere, no? Gli viene a chiedere i soldi, però c'è anche di peggio, cioè ci sono moti di piazza, assalti armati, l'assalto ai forni e quant'altro, e forse poi il problema del mutuo sulla casa, diciamo, passa lievemente in secondo piano rispetto alla sopravvivenza. Questo aspetto del ripristino in Grecia adesso, se tutto, vediamo se davvero l'Eurogruppo approva la base di questo programma oggi, se poi i parlamenti che dovranno votare voteranno senza fiatare nella parte d'Europa euroortodossa che noi copriamo di denaro i greci, perché devono rimanere nell'euro comunque anche se la produttività non la faranno e così via. Vi sottolineo che le riforme sul lavoro sono rinviate a ottobre nel programma, tanto per dirne un'altra, però detto tutto questo, vediamo se va così. Ecco, però se va così, in ogni caso la questione della ricapitalizzazione e la ristrutturazione del sistema bancario greco sarà la questione fondamentale, perché il tempo necessario per ridare regolarità, fiducia reciproca e regolarità dei pagamenti, ma innanzitutto tra privati in Grecia, non credete mica che è una cosa che si ripristina in 2 settimane, e quello è il fondamento di come funziona un paese. Finché questa roba è sospesa, perché nessuno si fida di nessuno, i PIL ovviamente scende, perché questo è l'effetto. Il dato di maggio della produzione industriale -4% in Grecia, e a maggio non era ancora iniziata la rumba, per cui io penso che i dati di giugno e luglio saranno drammatici. Esatto, sarà un pre-meltdown, diciamo. Ok, Pier Gianni da Pistoia, come la pensa invece? Lei è un tifoso di Tsipras, dica di sì o di no? Io sono un tifoso di Tsipras, buongiorno e grazie della possibilità. Sì. Però mi perdoni, perché volevo fare una deviazione su quello che è l'argomento di oggi. Sì. Io prima sentivo che lei diceva che gli italiani nella denuncia del 730, la denuncia dei redditi, hanno donato X milioni alla Chiesa. Mentre hanno donato la Chiesa è un miliardo. La Chiesa vale per quello che è. Mentre per i partiti politici non hanno praticamente dato quasi solo 16.000 contribuenti rispetto ai quasi 16 milioni che hanno scelto per l'autonomia della Chiesa Cattolica, solo 16.100 hanno utilizzato la facoltà del 2 per 1000 per dare ai partiti una somma che in totale è di 320.000 euro, di cui 199.000 al PD, e quelli del PD sono 10.000 su 16.000. Beh, in questo posso dire che ci sono più capitalisti in Cina che iscritti al Partito Comunista. Mi sembra una bella notizia. No, perché nel frattempo quei 100 milioni che adesso sono sul lastrico dei risparmiatori cinesi sono il vero motivo per cui il mercato e il partito dice che possono salire. Quindi non facciamo troppi paradossi insieme. L'ho interrotta Pier Gianni, però. Io volevo solamente aggiungere una cosa e poi chiudo, perché mi sembra giusto non rubare spazio. No, che rubare? Ma sono pochi quella cifra di italiani. E di fronte a quella sparuta cifra, lei che pensa? Allora, il mio pensiero è questo. Io sono andato, ho fatto il mio 7.30, mi è stato chiesto se volevo donare a X, Y, Z e mi hanno aggiunto anche se volevo dare ai partiti. Sì. Questo vabbè, ai partiti glielo posso dare, non è un problema. 2 per 1000 a me non costa niente, una firma. Però mi hanno detto che dovevo indicare il partito al quale lo volevo donare. Esatto. Ma mi perdoni Giannino, ma io quando vado all'urna a votare mica glielo dico allora che partito voto. E perché secondo il voto personale è uguale libero e segreto, come si secondo studia. Me la privacy in questa maniera viene bypassata. Allora, io ringrazio Pier Gianni, perché questo punto è un punto fondamentale che indurrà il 2 per 1000 a non funzionare. Virgola. Se vuole le do la mia opinione. Punto. Siccome gli esperti dei partiti che hanno elaborato il sistema non sono degli sprovveduti, virgola. Penso che lo abbiano fatto apposta, punto. Sa perché? Perché loro vogliono dimostrare entro i prossimi 2 anni, anzi l'anno prossimo, che il 2 per 1000, come si vede, non dà una risposta ai costi della democrazia, e quindi per questo ripristineremo il finanziamento pubblico. Faccio una scommessa con me, Pier Gianni, perché se crede che hanno messo la norma dell'indicazione esplicita del partito perché erano gli sprovveduti, vuol dire che noi non conosciamo Ugo Sposetti, per così dire, perché tutto è tranne uno sprovveduto. E quindi per l'ennesima volta diranno che il finanziamento pubblico bisogna restituirlo per colpa vostra, perché voi non siete generosi, perché voi non ammirate la trasparente limpidenza degli uomini politici italiani, perché vi fermate a questi dati come l'intero consiglio regionale della Campania sotto inchiesta, vi fermate di fronte al fatto che la legge Severino per De Luca ovviamente si interpreta e non si applica, vi fermate di fronte al fatto che naturalmente c'è mafia capitale a Roma, vi fermate di fronte al fatto che all'ATAC si contingentano nelle stazioni i passeggeri, perché nel frattempo non si fa non si obbligano i coloro che fermano i treni perché non vogliono il badge, e vi diranno che è colpa vostra, perché queste sono minuzie. Non fate come Carlo Alberto, che di fronte a Tsipras dice che comunque è una cosa positiva. Ti aggiungo invece una cosa che per me è una pessima notizia, che gli italiani non c'è, e che la finzione giuridica della segretezza del voto dobbiamo togliere, perché non la decomposizione matura e non è un problema di segretezza, ma oggi ci mancherebbe altro che debba essere segreto. Ma scusiamo, vuoi il voto esplicito? No, non necessariamente, ma il mito della segretezza sicuramente lo vuole digitale. Il mito della segretezza in una democrazia matura è una finzione. Ah, per esempio in Calabria e in Sicilia da tempo c'è un meccanismo per cui è riconoscibile. Appunto, hai citato casi di democrazia immatura. In una democrazia matura come quella degli Stati Uniti, la segretezza del voto è una finzione, non c'è bisogno di nascondersi rispetto a quello che si pensa, perché la libertà è garantita. Vi è chiaro che la segretezza è una garanzia per la limitazione delle libertà. Quando la libertà è garantita, la segretezza non serve più. Ok, allora sì, allora ci siamo capiti. Oh, vedi che invece ma parti dalla cosa rassicurante. Se tu prima dici io devo essere contrastante, invece devo fare brushing, capisci? Giorgio da Trieste, rapidissimo Giorgio. Pronto? Ecco, buongiorno a tutti. Sì. Volevo solo dire una cosa, no? Che forse in parte avete già sfiorato, no? Che normalmente quando c'erano le pensioni che a 35 anni andavi in pensione, adesso le abbiamo portate a 40, si liberava ogni anno circa 100.000 nuovi posti di lavoro. Quindi tu sei per la staffetta generazionale. Sì, no, ma il problema è ancora peggio, perché qui io, anche intorno a casa mia, ma sto vedendo qui anche a Trieste, ci sono tantissimi ragazzi a 22, 23, 25 anni, nessuno lavora, nessuno fa niente. Non so, a parte che è disastroso per loro perché non hanno un reddito, non hanno niente. Però il problema è che questi, se non riattiviamo di nuovo un sistema normale di relazioni sociali, questi qua non lavoreranno e non ci pagheranno anche i contributi per il prossimo futuro delle nostre pensioni. Soprattutto che poi contributi in più, visto che poi se si va in pensione prima. Grazie Giorgio, noi non la pensiamo direi proprio così, comunque va bene. Allora, strade, e torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui tornati in quest'ultimo blocco dei conti della belva, intera compagnia al completo. Renato, Carlo Alberto, Mario e Oscar. E tornando però sulla questione del no ai prepensionamenti di anzianità, Tito Boeri l'altro ieri, presentando il rapporto INPS, abbiamo sentito le ragioni di chi dice sto con Boeri, no ai prepensionamenti, però è anche giusto, assolutamente giusto, dare voce a chi nel blocco politico sociale dice no, invece in realtà bisogna smontarla la legge Fornero, argomenta diversamente. È con noi Nicola Marongio, coordinatore dell'area welfare della CGIL. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Perché la preoccupazione per l'equilibrio di finanza pubblica esposta da Boeri e anche questioni di equità intergenerazionale, secondo voi, non sono fondate e si può tornare invece ai prepensionamenti anche pagati in deficit e con un taglio corrispettivo sull'assegno di chi è da prepensionare? Ma perché secondo noi innanzitutto è sbagliato il termine prepensionamenti, cioè noi pensiamo che valutando gli effetti della riforma Fornero occorre restituire una maggiore flessibilità al sistema, cioè quello che osserviamo è che l'innalzamento dell'età contributiva per andare in pensione attraverso la pensione anticipata, che non è 40 anni ma ormai siamo sulla soglia dei 43, e l'innalzamento dell'età anagrafica che corre oramai verso i 63 anni, siamo a 62 e 10 mesi perché sì, col meccanismo dell'aspettativa di vita si sposta ogni di 4 mesi ogni tot di tempo, sì, è evidente che oltre che poi l'altro meccanismo legato all'entità dell'assegno che non può essere inferiore fino a una dimensione prefissata sull'assegno sociale determina l'impossibilità per una quota parte consistente dei lavoratori di agganciare questo requisito pensionistico e quindi bisogna reintrodurre una maggiore flessibilità all'interno del sistema. Il punto è riguarda i costi. Che non vuol dire il prepensionamento, perché vabbè, il prepensionamento ne fa una questione di senza modificare il requisito. Ho capito. Ma restituire una flessibilità. Lei, una lei dice flessibilità. Modificando i requisiti. A noi quello che interessa è chi paga. Ma, noi sappiamo tutti che la riforma Fornero ha prodotto, diciamo, nel tempo un intervento diciamo di saldo positivo sulla finanza pubblica notevolissimo. Saldo positivo mi permetta, il saldo positivo sì, è su un andamento meno squilibrato del sì, contributo annuale che viene dalla fiscalità parte, generale, non è che si parte, genera un avanzo. Una quota parte di quei risparmi che ha prodotto può essere utilizzato per poter garantire una flessibilità in uscita, che poi può essere anche in qualche modo misurata, nel senso che ci sono alcune quindi proposte in deficit quali... a carico della fiscalità generale. No, ma noi non trovo niente di scandaloso, basta semplicemente dirlo. Adesso il punto è la rigidità del sistema associata anche alla riduzione degli ammortizzatori sociali comporta una difficoltà anche di sostentamento alle persone. Se io poi mi devo porre un problema, no, dei lavoratori over 55 che non agganciano la pensione e che hanno necessità di sistemi di sostegno, da dove reperisco quelle risorse? Quindi in qualche modo bisogna costruire un sistema che possa avere un carattere maggiormente equilibrato e che in sé contenga una maggiore flessibilità. In qualche caso i risparmi possono essere ottenuti anche all'interno dello stesso sistema. No, non dico di no, però insomma è un ragionamento esplicito. No, ma è un ragionamento esplicito. Io in questo dico l'opinione della CGIL, ma non solo della CGIL, ma comunque della CGIL che l'ha detto fin dal primo momento è e i problemi sociali, di coesione, di non aggancio di un sistema che accelera sull'innalzamento dei requisiti rispetto a quello che succede ai lavoratori italiani, rende necessario riaprire la flessibilità, vedremo i costi, però è un problema di priorità. No, ho capito, è molto chiaro quello. Posso aggiungere, tra l'altro, con una riforma che non distingue in nessun modo i lavori. No, è che anche questo è un punto più volte toccato, bisogna estendere la questione degli usuranti, per così dire, non pensare che tutti vadano con gli stessi requisiti, qualunque sia stata la loro occupazione, però almeno la vostra è una posizione esplicita, dite, secondo noi vale la pena, vediamo i costi, ci sono costi aggiuntivi, sì, ma è un problema sociale, ne vale la pena, così almeno lo accetto, perché altri almeno non lo dicono come voi con questa chiarezza. Allora, Renato, cosa ci regali alla fine, non si può fare della settimana? Questa settimana mi sono letto i giornali, mi sono tirato fuori 3 o 4 cose, 3 o 4 chicche, abbiamo poco tempo, ma allora una è sul digitale, che sappiamo che io e Carlo Alberto siamo sempre molto sensibili sulla cosa, fanno un altro bel click day e fanno un click day per dare i soldi per mettere le linee veloci negli hotel, cioè a uno che non ha il... che non ha linea veloce gli fanno click day, quindi prima mettetela e poi fate click day, perché sennò si è messi male. Poi io e te prendiamo in giro sempre la Grecia, che deve prendere un po' di soldi lo Stato, sai quanti ne abbiamo da prendere noi di soldi? 600? Non è la stessa cosa, ma speriamo non sia la stessa cosa, dai. Non è la stessa cosa perché nel nostro caso quello riguarda il contenzioso, no, in quel caso sono proprio quelle messe a ruolo, cioè prima del contenzioso, se no la Grecia ci batterebbe da quel punto di vista. Allora la compagnia vi saluta al completo, Mario, Carlo Alberto, Renato e Oscar, continuate in questo sabato, vedremo come va a finire la faccenda greca, o appuntamento con me lunedì, ma noi ci siamo per tutto luglio con i conti della Belva, sabato prossimo.